Letture di Radio 24. Per il peccato esiste il perdono, per la corruzione no. Questa ha bisogno, prima di tutto, di essere curata. Così si esprime Jorge Mario Bergoglio, il futuro Papa Francesco, in un breve saggio sulla corruzione pubblicato nel 2005 e ora riproposto dalla casa editrice EMI. Tra i comportamenti tipici del corrotto, Bergoglio individua il continuo bisogno di paragonarsi con altri che appaiono coerenti con la loro stessa vita per coprire la propria incoerenza. Per un velleitario, una persona che ha chiari i limiti morali e non fa sconti è un fondamentalista, un antiquato, uno chiuso, una persona che non è all'altezza dei tempi. E qui compare un altro tratto tipico del corrotto, il modo in cui si giustifica. Perché in fondo il corrotto ha necessità di autogiustificarsi, anche se non si accorge di farlo. Il modo di giustificarsi di chi si trova nella corruzione ha due caratteristiche. In primo luogo, egli fa riferimento a situazioni estreme, esagerate o che di per sé sono negative. In questo riferimento, il corrotto instaura un paragone tra le buone maniere delle sue mancanze e la contundenza del peccato al quale allude. Si tratta di un confronto falsato, perché i termini sono di genere diverso. Si paragona un'apparenza con la realtà. Però, allo stesso tempo, si applica al prossimo una realtà che non è esattamente così. E qui si rivela il secondo tratto. Nel paragone, il termine a cui si fa riferimento viene caricaturato in se stesso o nelle relazioni che vengono fatte con situazioni esterne o che lo riguardano in qualche modo, dove si utilizzano interpretazioni di fatti alla luce di altri fatti simili, apparentemente reali o reali, ma applicati in modo non adeguato. Nel confrontarsi, il corrotto si erge a giudice degli altri. È lui la misura del comportamento morale. Io non sono come lui, significa quello lì non è come me e perciò ti ringrazio. È come se dicessi io sono la misura del compimento. Insieme a questo essere misura del giudizio c'è un altro tratto. Ogni corruzione cresce e allo stesso tempo si esprime in un'atmosfera di trionfalismo. Il trionfalismo è il brodo di coltura ideale per gli atteggiamenti corrotti, poiché l'esperienza dice che questi atteggiamenti danno buoni risultati. E così il corrotto si sente un vincitore, trionfa. È precisamente questo trionfalismo, nato dal sentirsi misura di qualsiasi giudizio, che permette al corrotto di abbassare gli altri alla propria misura trionfale. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Jorge Mario Bergoglio, Guarire dalla corruzione, edizioni EMI, 62 pagine, 6,90 €. Tra i numerosi testi che hanno invaso le librerie italiane dopo l'elezione del nuovo pontefice, uno dei più interessanti è quello che ripropone l'intervista realizzata nel 2001 a Bergoglio, all'epoca arcivescovo di Buenos Aires, da Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti. Il futuro Papa ripercorre i ricordi della propria infanzia, l'esperienza del seminario, il dramma della dittatura e quello della crisi economica che proprio in quegli anni aveva colpito l'Argentina. Alla fine della lunga conversazione, Bergoglio spiega le ragioni per cui bisogna, nonostante tutto, avere fiducia nel futuro. Per me, la speranza sta nella persona umana, in quello che ha nel cuore. Io credo nell'uomo. Non dico che è buono o cattivo, dico che credo in lui, nella dignità e nella grandezza della persona. La vita ci pone continuamente delle questioni morali e noi mettiamo o non mettiamo in pratica i nostri principi perché a volte ci lasciamo travolgere dalle circostanze e soccombiamo alle nostre debolezze. Nel Novecento ci sono state molte cose fantastiche e altre spaventose. Ora stiamo meglio o peggio di prima? Se uno osserva la storia, si accorge che ci sono sempre stati degli alti e dei bassi. La vena della malvagità c'è sempre stata, la possibilità dell'uomo di trasformarsi in mostro. Certo, quello che viviamo oggi ci fa più male. Nonostante tutto, la storia continua ad andare avanti. L'uomo continua ad avere comportamenti altruisti, a scrivere cose molto belle, a fare poesia, a dipingere, a inventare nuove tecniche e a far avanzare la scienza. e siccome io credo nel futuro dal punto di vista umano, ci credo ancora di più dalla prospettiva cristiana, a partire dalla presenza di Cristo in mezzo a noi. E a proposito dell'indebolimento dei principi etici come conseguenza dell'avanzamento della scienza, Bergoglio afferma: per questo è così importante il dialogo etico, ma di un'etica animata dalla bontà. Confesso che ho il terrore degli intellettuali senza talento e dei moralisti senza bontà. L'etica è una pianta che cresce dalla bontà umana. Affonda le radici nella capacità di essere buoni di cui dispongono le persone o le società. Altrimenti si tramuta in moralismo, in un'etica delle apparenze e, in definitiva, nella grande ipocrisia della doppia vita. La persona che si traveste da persona etica, in fondo, non ha bontà. La Chiesa deve accompagnare lo sviluppo dei popoli, esistenziale, morale, umano, con tutto il suo nuovo potenziale. Deve farlo crescere in umanità, perché l'uomo è il destinatario della rivelazione di Dio, immagine di Dio. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Jorge Bergoglio, Papa Francesco, Il nuovo Papa si racconta, conversazione con Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti. Salani Editore, 192 pagine, 12,90 €. Sulla vita e il pensiero di Jorge Maria Bergoglio si sofferma invece il libro di Saverio Gaeta, caporedattore di Famiglia Cristiana. Prima di indicare quali saranno le sfide che dovrà affrontare il nuovo pontefice, Gaeta ricorda quelle che Bergoglio aveva già affrontato quando era arcivescovo di Buenos Aires. Sfide nelle quali il futuro papa mostrava tutta la sua determinazione, come avvenne ad esempio nel 2001, in occasione delle rivolte popolari contro la crisi economica che in quegli anni aveva messo in ginocchio i risparmiatori argentini. Il 20 dicembre 2001 assistette dalla finestra del suo studio agli scontri in Plaza de Mayo e vide come la polizia caricava inermi cittadini che protestavano per il blocco dei loro depositi bancari a causa del default finanziario. Alzò immediatamente il telefono e chiamò il ministro degli interni e il responsabile della sicurezza nazionale per protestare contro il loro atteggiamento, che confondeva agitatori e terroristi con semplici risparmiatori che manifestavano impauriti. E in questo modo ottenne almeno che si smettessero le cariche indiscriminate degli agenti antisommossa. Subito dopo, mediante la Caritas diocesana, diede avvio a mense popolari e centri di accoglienza per i senza tetto, distribuendo tutti gli aiuti che poteva e recandosi ovunque di persona a portare il conforto e la vicinanza della Chiesa. Nel contempo, sul piano pastorale mostrò il massimo dell'attenzione per l'emergenza educativa che a Buenos Aires si avvertiva con chiarezza. Istituì un vicariato episcopale per l'educazione e spiegò che il dramma della nostra epoca è che l'adolescente vive in un mondo che a propria volta non è uscito dall'adolescenza. I ragazzi crescono in una società che non chiede loro nulla, non li educa al sacrificio e al lavoro, non sa più cosa sia la bellezza e la verità delle cose. Per questo l'adolescente disprezza la storia passata ed è spaventato dal futuro. Tocca alla Chiesa riaprire i sentieri della speranza. Perciò chiese ai suoi parroci di rimboccarsi le maniche e di dare spazio alla fantasia. In un'intervista al mensile 30 giorni è partito dall'osservazione sociologica che l'influsso di una parrocchia si limita al raggio di 600 metri e ha quindi raccontato, con umoristico disincanto, «A Buenos Aires ci sono circa 2000 metri tra una parrocchia e l'altra. Ho detto allora ai sacerdoti, se potete, affittate un garage e se trovate qualche laico disposto, che vada, stia un po' con quella gente, faccia un po' di catechesi e dia pure la comunione se glielo chiedono». Un parroco mi ha detto: «Ma padre, se facciamo questo la gente poi non viene più in chiesa». «Ma perché?» gli ho chiesto. «Adesso vengono a messa». Alcune volte ha però dovuto fare anche una tirata d'orecchi ai suoi sacerdoti. Per esempio, a qualche parroco che rifiutava il battesimo ai bimbi nati da coppie irregolari, ha replicato: «Il bambino non ha alcuna responsabilità dello stato del matrimonio dei suoi genitori, e poi spesso il battesimo dei bambini diventa anche per i genitori un nuovo inizio. Di solito si fa una piccola catechesi prima del battesimo, di un'ora circa, poi una catechesi durante la liturgia. In seguito i sacerdoti e i laici vanno a fare le visite a queste famiglie per continuare con loro la pastorale post-battesimale. E spesso capita che i genitori, che non erano sposati in chiesa, magari chiedono di venire davanti all'altare per celebrare il sacramento del matrimonio. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Saverio Gaeta, Papa Francesco, La vita e le sfide, edizioni San Paolo, 144 pagine, 9,90 €. Durante gli interrogatori, i testimoni possono essere influenzati dal modo in cui gli investigatori rivolgono loro le domande. Per garantire un distacco assoluto, due ricercatrici americane propongono di sostituire l'uomo con un robot. I robot sono già all'opera nelle fabbriche. E se in futuro fossero usati anche per interrogare i testimoni di un crimine? È quanto suggerisce uno studio condotto da Cindy Battle, Deborah Ikin e dal loro team alla Mississippi State University. L'obiettivo? Raccogliere informazioni senza influenzare le risposte del testimone, cosa che, come sanno psicologi e investigatori, può avvenire anche con la formulazione delle domande. È l'effetto informazione sbagliata, spiegano Battle e Ikin. Ma cosa accade se si ha di fronte un robot? Nel test, i partecipanti visionavano diapositive in cui un uomo rubava soldi e una calcolatrice. Poi venivano loro poste domande da un ricercatore o da un robot controllato da una persona non visibile, dicono le studiose. In una condizione, le domande contenevano informazioni sbagliate su una serie di elementi. Per esempio, si suggeriva che la calcolatrice fosse stata nascosta sotto un martello invece che sotto un cacciavite. Poi i partecipanti dovevano fare un test su ciò che ricordavano. Risultato? Con gli intervistatori umani, le persone a cui erano state fatte domande ingannevoli ricordavano gli elementi giusti molto meno di quelle a cui erano state fatte domande corrette. Ma questo non è accaduto quando le domande ingannevoli erano poste dal robot. Come mai? Battle e Ikin avanzano ipotesi. È possibile che con un robot non ci siano le esigenze sociali che scattano con un umano. Le persone possono rispondere martello nel test, come ha detto l'intervistatore, perché pensano che sia quello che si aspetta e vogliono essere collaborative o non desiderano creargli problemi riportando una cosa sbagliata. Per il robot questo può non valere. Le persone pensano che abbia sbagliato o che non avrà alcuna conseguenza se dicono ciò che ricordano davvero. Se ulteriori ricerche evidenzieranno come i robot facciano scattare meno questi meccanismi sociali, potremmo pensare di usarli per raccogliere rapporti più accurati dai testimoni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giovanna Camardo, Ti interrogo io, dal numero di aprile del mensile Focus.